alle 10, c'è qualcuno? Buonasera. Ciao, chi sei? Sono un nuovo CB. Nome nativo? Sono Alberto, ho scelto un nominativo. Sì, no, ma nome, dimmi il nome, non dico nome nativo. Alberto. Alberto, da dove stiamo trovando? La Sassari. Ma è così, ma sei in macchina? Sì, siamo in macchina. Ah, infatti, vabbè, la roba è come questa fase, comunque. Santiago 9, abbondante, il tuo segnale, la radio quasi 5, c'è anche un po' di rumore di fondo. E in che zona ti trovi? Ah, ok, come mi ascolti a me? Perfetto, guarda, pulito, con lo scala. Ti sento un po' disturbato, non ho capito quello che hai detto, o parla più lentamente? Ti sento perfettamente, pulito. Ok, e sei nuovo CB mi hai detto tu, no? O ti sei rimesso in moto, dico, adesso, o sei già da tempo passato? No, sono proprio nuovo. Vediamo se c'è qualcuno. Normalmente noi qua siamo sul canale 10 e più o meno a quest'ora c'è sempre qualcuno. Ultimamente, anzi, ieri c'erano abbastanza, c'erano molti, diciamo, come CB. Abbiamo collegato anche Matera, abbiamo fatto qualche la Puglia, un paio di collegamenti quando c'è propagazione. Ma sei abbastanza informato tu di condizione di trasmissione o è proprio all'inizio? No, inizio. Va bene, iniziamo. Comunque, perfetto, ho ricevuto quello che mi hai detto. Adesso ti sto perdendo, però. Sei un po' basso di segnale, probabilmente ti sei allontanato, sei in mezzo a qualche palazzo. Palazzo. Ciao Giulio, c'è l'amico, come hai detto, ricordami il nome, scusa, l'amico in macchina. Alberto. Sì, Alberto, l'ascolti Giulio? Sì, l'ascolto. Un mattino, quello che l'ascolto. Ciao Alberto, ciao Giulio. Grazie mille Giulio. Ok, sei in movimento però, Sì, sono in macchina. Ok, me ne sono accorto dal segnale, perché prima era un tantino più forte, adesso naturalmente se sei spostato hai un altro segnale un pochino più basso, però già ti sento bene lo stesso in radio. Perfetto. E Alberto, che baracchino stai utilizzando? Un Midland. Cos'è, la 48? 7-8. Non ti ho copiato, hai detto un Midland, però non ho capito che modello, cos'è Alan 48? Un Midland 72 Plus. Non ti ho capito. Giulio, l'hai sentito cosa ha detto? Io lo sento, però in questo passaggio non ho capito cosa dice. Cosa ha detto? Il Midland 78 o 88? 72 Plus, buonasera, ciao Giulio. Si capisce, buonasera Marco Scorpio, perché c'è l'eco e è molto compresso, perciò si fa fatica a capire, qui arriva a fondo scala. Ciao, buonasera a tutti, Marco Scorpio. Marco Scorpio. Sì, Marco, ben sentito. Alberto, non è una critica, però un'osservazione, parla un po' più lentamente, il passaggio falli più lenti, perché sennò con quell'eco non riusciamo a capire quello che dici. Il segnale tuo è 9, però quando parli troppo veloce non riusciamo a capire. Un po' più lento, se hai modo di togliere quell'eco è anche meglio. Avanti Giulio per il saluto a Marco. Ok, ciao Marco, ben ascoltato dopo un po' di tempo. Mi sembra che c'è anche Cristian, se non sbaglio. Cristian, ci sei? No, forse mi sono sbagliato. Mi è sembrato Cristian un po' forte, una modulazione, sentito, ma mi sembrava Cristian. Avanti Marco. Grazie, ciao, buonasera. Saluto anche il nuovo arrivato qui nella banda cittadina, Alberto. Buonasera Marco Scorpio, anche io sono immobile. Ciao Giulio, ciao a Roberto, col quale mi sono sentito anche prima. Sono in movimento anche io, di rientro verso casa. C'è un gran bel traffico a Predanieta. Va bene, l'antenna a te Roberto, fai girare. Con la buonasera a tutti, Marco Scorpio. Ok Marco, ben sentito come prima. Dai. Ok, Alberto, vediamo un po' se c'è ancora avanti Alberto. Vediamo se riusciamo a tirarti fuori un po' meglio adesso. Di nuovo a te il mic. Sì, adesso come mi sentite? Purtroppo sei bassino, sei quasi 8, però ti porti un po' appresso di disturbi atmosferici, corremmo. Vediamo Giulio se ti ha copiato. Avanti Giulio. Sì, adesso quando passato l'ho copiato bene, non è il massimo, però l'ho copiato bene. Avanti Alberto, fai ancora un nuovo passaggio, vediamo un po' se sei riuscito a sistemare la tua radio, vai. Provo adesso, com'è? Un attimo. Stai parlando troppo vicino al microfono, perché poc'anzi nel passaggio precedente è più chiaro, non lo so com'è, però non è chiarissima la voce, dai, a momenti ti capisco perfettamente. esattamente quello che dici, anche se c'è una inclinazione microfonica. Diversamente non lo so, vedi tu cosa deve fare. Boh. Va bene, la faccio girare. Avanti Marco. Sì, ma io adesso ti ascolto bene Roberto, senza l'eco la modulazione è più chiara. Diciamo che devi però sincronizzare i movimenti, devi schiacciare il PTT e attendere un attimino, perché non è fulmineo che si attivi la trasmissione, pertanto non si fa in tempo a sentire quello che dici e poi stacchi prima di aver finito la frase. Ti conviene insomma rallentare un po' la velocità con il quale premi e molli il PTT, ma così va molto meglio però, la modulazione è chiara. Dimmi tu se invece mi riesci bene, io sono a Pretanieta, a te Alberto. Ah, il tuo segnale è 9+10, allora io 5 non posso dire niente, e infatti l'avrei detto io, mi hai anticipato tu, devi stare un po' attento, dargli quel mezzo secondo dal momento che schiaccia il PTT in modo di non parlare, non è l'immediato la voce di Alberto, solamente prendile come consigli, non come critiche. E sta dicendo Alberto che è la prima volta che utilizza qua l'apparecchio, diciamo, per questo tipo di frequenza, per la banda cittadina. Lo rilanciamo un attimino di nuovo Alberto, vediamo un po' se ti ascoltiamo un po' meglio. Già gli insegno io come si modula bene, vai Roberto. Chi ti sei tu? Macchina mia Alberto, è come in macchina. Che appunto avvocato ti avevo sentito e ti avevo riconosciuto. Come mai non mi hai risposto? Pensavo parlando di me, ti ho lasciato parlare, vai. Allora, oh Cristian, diglielo tu come deve fare per modulare, perché se no diventa quasi impossibile. Va bene, dai, salutoni Cristian, ben entrato, dai, ti ho riconosciuto poc'anzi al volo, ti ho visto anche da qui addirittura. Va bene, dai, vai Marco. Benissimo, allora con la buonasera, ciao a Cristian, c'è stato un break, fallo venire avanti tu Robè, perché io mi devo fermare, non so se posso riprendere, se no alla prossima. Ciao, buona serata, ciao Alberto. Allora, comunque ben sentito qua per la prima volta in banda cittadina, saluti a te Giulio, a Roberto e a chiunque fosse in ascolto. Marco Scorpio, QRT, ciao, riprendi Robè per entrare al break. Ciao Marco, ben sentito, avanti il break. Ciao, buonasera a tutti. E a Massimiliano Redivivo, avanti Giulio per il saluto. Ciao Massimiliano, ben entrato. Ciao Marco, grazie per la chiacchieratina. Alle prossime, un abbraccio. Vai, non ho fatto ascolto, dai, buonasera a tutti, non so chi c'è, quindi saluto a tutta la ruota, dai. Gargamella! Dove eri? Per il Vella! Massimilia, buonasera a tutti! Buomane! Lo so io. Ciao Luca, ciao Natalino, ben entrati tutti e due. Ciao Toni, c'è un nuovo entrato insieme alla Crisia. Avanti, facciamolo venire avanti. Avanti ancora Alberto. Adesso come mi sentite? Adesso va un po' meglio, dai, continua così almeno sappiamo quello che dici. Ti faccio salutare gli amici che sono per entrati, Luca e Natalino. Avanti, e anche Massimiliano. Avanti Massimiliano per Alberto, un nuovo CB. Ciao, ok, dai, ciao Alberto, buonasera, ben ascoltato per la primiera qua. Massimiliano Bulldozer da questa parte. Grazie Massimiliano, piacere Alberto. Ciao Alberto, anche da parte mia. Ciao Natalino, Giulio, Massimiliano, e poi non so che ci sia altro, dai. Ciao Alberto. Ok, dai, io comunque saluto a tutti e volevo capire se sta andando tutto bene qua, eh. Avanti, Robè. Sì, ma sembra tutto bene, ma sembra che c'hai dei canali vicini, cos'è questo? No, vabbè, questo è il mio amico di viaggio, là, la Calopsite. E senti tipo vabbè, ciao Natalino, ciao Luca. Una domanda, forse Giulio lo sa, mi può anche rispondere. Ma Alberto è insieme a Cristian, non sono insieme in macchina? Sì, siamo insieme in macchina. Sono con Cristian. Ok, allora saluto anche a Cristian perché poco fa non l'ho salutato. Ciao Cristian, avanti a te di nuovo. Ha detto una frase Cristian e dunque l'ho riconosciuto subito. Infatti volevo anche accomunare la modulazione di Cristian con quella di Alberto, stavo per dirlo, ma siete insieme. Invece mi ha anticipato Cristian e ha confermato che sono insieme. Forse ti ho sovramodulato, Giulio, perché quando ho parlato io poi hai parlato subito su. E comunque ripeto a coso, a Cristian che non l'ho salutato, ti saluto adesso. Avanti Cristian. Ciao Roberto, ciao a tutti. Dai di nuovo tu, Giulio. Registrato perché. Cristian, dimmi a proposito, come è stato padre? Sì, guarda, tutto normale, guarda, il gabinetto prima del suo lì la sua pastiglia, grazie a Dio tutto va bene, guarda, tutto stanno come previsto. Ok, vai, sono contento per lui, salutamelo quando rientri. Va bene, avanti Becchi. Sì, facendo Giulio, sì, ciao Claudio, ben sentito. C'è un po' di effetto camera, però sembra che sei in un ambiente tipo capannone, dai. Ma sei molto lontano dal microfono. Sento molto un ambiente, cioè ti dà un senso di grandezza di ambiente, una stanza grande e vuota. Non proprio ecco, un riverbero, sembra che sia in una grotta, c'è un effetto, un ambiente grande, molto riflettente, dai. Assolutamente, adesso che ti sei avvicinato va molto meglio. E avanti Giulio, a te. Ok, ciao Claudio, me ne tratto. Non ti dimenticare di salutare tuo padre da parte mia. Ti prendi ancora Claudio. Ciao, grazie Giulio, come cambia i saluti, soprattutto sta facendo dei lavori qui, la computer, questa cosa di lavoro, sì, questo qua era qua con questo, mi sta qua controllando il contact, perché mi sono buttata praticamente la monopolina con la dove ci sono i numeri dei canali, e sta pagando con del suo, e va sistemata adesso perché si è appena allentata, magari quello che me l'ha data la radio, magari dovrà fare sempre la foresta, sicuramente, e si è allentata, come me l'ha messa a posto, me l'ha, e ho messo il timer più 3, quello grigio, l'ho messo, e pronto il giorno da buttare un super sideri, che è molto più bello, mi piace molto, e anche se più mitico, più microfono, sono più o meno identici tutti quanti i timer, non so portarti anche un super sideri, però sono quelli tutti quanti, da rendono bene anche. Io possiedo anche il timer, quello il giorno più 3 da palmo, però vuole sistemato, perché non lo rende bene, c'ha qualcosina che da rivedere, quello lì, che non sono niente. Queste sono le condizioni di lavoro, oggi è niente, riprendi Roberto. No, ti ascolto bene, diciamo, anche se devo dire che con l'altra radio probabilmente vai un po' meglio, comunque è importante che facci capire, essere la voce, avere la voce squillante. Dai, vediamo se c'è ancora Cristian e Alberto, li facciamo rientrare. Avanti Cristian o Alberto, uno dei due. No, io lì sto rientrando a casa, sto parcheggiando la piccola macchinina e faccio un attimo di bianco. Dai, posso trovare Alberto. Ok, ciao Cristian, allora saluto gli altri Alberto. Ci facciamo arrivare per Natalino anche Luca. Natalino, avanti. Sì, dai, sono in ascolto io che sto facendo cosa. Mi ascolto, dai. Ah, Roberto, mi ha telefonato un amico, dice che l'hanno fatto ieri i funerali di quella persona, amico. No, non l'hanno fatto perché Luca mi ha mandato il coso e c'è scritto la ossequio avvenuta. Eppure mi ha detto che l'hanno fatto ieri. Guarda, io lo stavo aspettando, non ho telefonato per correttezza, ma domani se ci riesco chiamo il fratello e mi faccio spiegare cosa è successo, perché voglio capire di cosa è deceduta questa persona. E c'è scritto nel necrologio, se vuoi te lo posso anche mandare, me l'ha mandato Luca qua, l'amico del monte, e c'è scritto ossequio avvenute, eccetera, eccetera. E il fratello, la sorella e relative fidanzate o compagna, la moglie del fratello. C'è la foto sua, colori, forse di qualche anno fa che stava un po' meglio, dai. Sì, ho capito, vabbè, a me mi ha telefonato un amico, vabbè, fammi sapere al limite. Ciao, vabbè, io rimango in ascolto, purtroppo non posso rimanere, sto facendo cosa qua, che mi si è incasinato tutto. Okay, che è rimasto Luca, va. Luca non c'è, vediamo Giulio, poi chi c'era? Claudio, mi sono entrato per qualcuno, avanti su 10 che vuole entrare. Allora riprendi tu Claudio. Cos'è? Ti ha causato la TTT? Sono scariche, boh, non capisco, non te c'è qualche tempo da lontano. Non è così Salvatore tu, quello che stai trattando con Luca, o l'aviatore tra l'altro, non è solo CB, non è così. Salvatore, il nome nativo? Io mi sembra che era Cobra, almeno io lo, come CB lo conosco, io l'ho sempre conosciuto come radioamatore, però come CB forse era Cobra. Ci abbiamo parlato un sacco di volte, ti ricordi che Luca faceva il cagliarettano e lui faceva il tussi, cane bui, spiccio, non ne hai spiccio? Sì, qualcosa del genere me ne ricordo, però non ce l'ho presente, la verità. Vabbè, purtroppo, faccio l'anima sua, purtroppo la vita è crudele, io l'ho sempre detto e continuo a dirlo, la vita è crudele. Ma è anche crudele soprattutto. Facciamo girare. Avanti Claudio. Sì, si può scegliere tu. Purtroppo così siamo di passaggio in questa vita, quindi dobbiamo godersela fino alla fine, il più possibile anche, è meglio. Volevo chiederti Alberto, ma questo vestito come faccio a fare il denominativo? Allora c'è lo stesso denominativo di Claudio Spalviero, però cambia una lettera, uno è D e l'altro è B o C, adesso non mi ricordo. Ah, ma C è. Cos'è Natale? C. C cosa? L'ultima lettera. Ah sì sì, allora io vabbè lo conosco per questione di famiglia perché era il figlio di mio padrino e di mia madrina, siamo da sempre ci conosciamo, la nostra famiglia sono come parenti, dai, diciamo così, per cui ci conosciamo bene. Come CB io non l'ho conosciuto, io sono entrato qua nel 2004 e lui era già radioamatore nel 2004. E come CB credo, almeno io la macchina avevo, ci aveva sempre questo nome scuro, prima lo scopio, scusa. Comunque, dai. Scusate dai, ero entrato per salutarvi, ciao. Sì, scusa. Ma ci abbiamo parlato sopra, ciao ciao. Ok, ciao Massimiliano, io pensavo che avevi già chiuso un po' carte, forse mi ero distratto un attimo. Scusa Massimiliano, non ti abbiamo più richiamato. Non è un problema, ok, dai, vi saluto a tutto, grazie, grazie per la chiacchieratina veloce. Ciao a tutti. Ciao Massimiliano. Anche io ho capito che Massimiliano aveva chiuso, era entrato soltanto per vedere come funzionavano gli apparati. Dai. Ok Massimiliano, buon tutto, ciao ciao. Grazie a te Massimiliano, grazie a te per essere entrato a salutare. Fatti sentire però, adesso è un bel po' di tempo assente. Avanti Luca, ne abbiamo richiamato poc'anzi, ma è sparito. Purtroppo io mi sposto dalla camera, dai. Sono stato chiamato dalla signora. Ah, ho capito, va bene, dai. Prima la famiglia, poi la, e poi il baracchino, questo è scontato, non ci sono dubbi, ci mancherebbe altro, va bene, dai, facciamo girare per lei. A proposito, questo è un attimo che voglio fare a Natalino, Natalino, ma per caso è quell'amico che bombardava con te anni or sono con la tua radio, eccetera, eccetera, in preparazione. Si faceva i DX, lui saliva in campagna perché non aveva antenne a casa sua, io avevo le antenne e lui allora veniva a farsi i DX. Una volta gli ho costruito l'antenna, non c'è più salito e quindi sono da allora che non lo vedo più, però mi dispiace ugualmente, era una bravissima persona. Ok, Natalia, certamente dispiace sempre quando una persona scompare, ci mancherebbe altro, questo è scontato. va bene, dai, facciamo girare, avanti Claudio. Dai, saluto anche a Claudio da Mulo, se non so se mi ascolta. Claudio, mi senti? Oh, non c'è. Andare. Però non c'è scritto, niente di Salvatore. In quale chiesa ha fatto il funerale? Il funerale l'avevano fatto in forma privata, secondo me, Luca, gli hanno dato la cremazione e finito lì, perché non ho saputo niente, neanche la nostra famiglia, nessuno. Io mi ricordo quando era ricordato il padre di Maria, lo vedevo spesso lì, lui non l'avevo riconosciuto. Infatti al periodo c'era questo qua, lo stesso, che era praticamente collega del padre di Daniele Lizieri, da quando fa la baracchino. Infatti quel tipo era morto, cioè aveva tutte le chiazze nelle gambe, era tutte le chiazze di sangue, diceva il tumore. Ma peccato, l'hai ricoverato? Cioè. No, dico, il collega è il padre di Daniele, capito? La buona anima è il padre di Daniele. Infatti anche lui ha deciso, mi sa che si fumava, se non sbaglio, 3-4 pacchetti di sigarette al giorno. Figurati, allora io ci sentiamo abbastanza, anche se adesso devo dire sono passato in officina poco prima di andare in ferie, e sono anche però adesso in officina non l'ho più visto. Dopo te l'ho visto io, non l'ho visto, forse al funerale del padre. Lo sapevo che fosse morto il padre, non lo sapevo. Ok, vediamo se è rientrato Claudio di Muro, sono avanti Claudio. Sì, Stefano, sì. Purtroppo si di Covid. Vabbè. Ok, Giulio, a te il mic. Purtroppo si sente sempre quando muore una persona, ci mancherebbe altro, poi il motivo per morire, già lo sappiamo, ce ne sono migliaia. Ma comunque, evidentemente l'ha arrivata la sua ora. Faccia l'anima sua. Avanti Luca. Sì, vabbè, poi aveva altre patologie, ma il Covid l'ha proprio crepato. Vabbè. Comunque sia, ognuno di noi ha una data, come ce l'ha la data di nascita, la data di morte, uguale. La data di scadenza, quando scade il tagliando, dopo averne fatta magari alcuni rinnovi di tagliando, una persona alla fine c'è l'ultimo che non si rinnova più, purtroppo è così. Vabbè dai, rimaniamocene tranquilli finché possiamo, quando non possiamo pazienza. C'è qualcuno al di sopra di noi che decide per noi, appunto. Avanti Roberto. Sì, vabbè, visto che siamo in discussione funebre, mio cognato, quando è sabato mattina, è andato a buttare le ceneri del padre di un amico suo, di un suo collega, all'argentiera. Erano 3 anni che stavano aspettando l'autorizzazione, alla fine sono riusciti a dargli l'autorizzazione. Io non lo sapevo che si potessero ottenere le ceneri in casa, tantomeno che si potessero buttare. Mi ha detto no, addirittura ad Alghero già da qualche anno gli davano la possibilità di buttarle. Dice, le puoi tenere in casa, però vengono ogni tanto a controllare che tu le tieni conservate bene, eccetera, eccetera. Lo sapevate questo voi? Sì. Io sapevo che la persona lo può tenere, le ceneri di un suo parente, di un marito o di una moglie o di un figlio, eccetera, eccetera. Questo sì, però che lo venissero anche a controllare, questo non lo sapevo, la verità. Anche perché c'è qui di fronte una famiglia che purtroppo, una ragazza che è diventata vedova ed era uno anche giovane, lui, marito, 40 anni, appena 42 anni, e devo dire so che ha le sue ceneri a casa. Che vengano poi a controllare, no, questo non te lo so dire, Roberto. No, per me è stata una novità, io pensavo una volta messi nel forno crematorio, finiva tutto lì, poi li mettevi nell'uculo o nella tomba, non lo sapevo, ma cioè, capisci, sono in America, nei film queste cose qui, e che vuol dire buttavano le cenere nel fiume, nel mare, eccetera. Infatti sono rimasto un po' stupito e mio cognato dice, l'ho visto io, ma tu dove sei andato? Allora a buttare le cenere in mare, siccome lui è pescatore, il figlio di quell'amico che c'ha il nome uguale all'amico tuo, senza far nome giù, e quello vicino a te, che era vicino a te. Io penso che stesso prendendo, ma vedo, vai a prendere, no, allora sì, no, le ceneri di mio padre, siamo 3 anni che abbiamo fatto la domanda, adesso finalmente ci hanno autorizzato, ho detto non lo so, dove state andando? All'argentiera, gli dicono una preghiera o qualcosa e poi li buttano lì. Ho capito Roberto, purtroppo ci sono tante cose che magari si fanno e non siamo al corrente. Sì, ma penso che sia facoltativo, non è detto che quando magari una persona viene cremata che sia obbligato a prendere le ceneri, questo non lo so, non credo, penso che sia un po' facoltativo, se la famiglia o chi per lui magari le richiede, giustamente gliel'hanno, ma non credo che sia proprio obbligatorio richiederle o tenerle per forza, o magari quando una volta fatto, così non so dove vanno messe, se vanno disperse, se vanno buttate, non lo so, la verità o Romero, non ti so dire niente. Luca, ci sia, avanti. Sì, senti, ogni tanto mi sposto, non vi preoccupate, se non vi rispondo vuol dire che non ci sono. Infatti adesso mi sposto di nuovo, dai, tranquilli. Sì, facciamo bene avanti Claudio Di Muro, so che è un po' in parcheggio, vediamo se è rientrato. Avanti Claudio. 5-6, io sono spostato un po' più fino alla finestra, dove si sta fatto il vento, perché io dico che mi stava salendo un po' di QRM, scusate se non ho ripreso un po' confuso, sono portato un attimo nell'altra stanza dove c'è la soltazione, mi sono affacciato un attimo, ma quindi ho visto che non ho portato il vento, perché sono venuto a prendere Skype poco fa e capito. Un certo punto di vista la Santiago 2, con questa radio, io sono proprio a Santiago 0, perché va in una radio fantastica, sono proprio a perché ho sempre detto di QRM, stasera non mi vuole da cosa intendere, ma perché anche voi avete sentito con le Skype, è vero Roberto, quindi... Sì, poco fa le ho sentite, Mari, è previsto diciamo da domani pomeriggio in peggioramento, poi non so se piove o non piove nella zona nostra, però il tempo è in peggioramento, mercoledì sicuramente piove. Ok, vediamo chi è rimasto, Natalino del Mike, Natalino non c'è, vediamo se c'è qualcuno nel frattempo vuole rientrare, 2 secondi di bianco, se no prendi tu il mic qui Giulio, avanti sul 10 tu vuole entrare. Buonasera, sono sempre Alberto. Chi sei? Alberto. Ti sento basso, tipo chi sei, Cristian ancora? Siamo a casa, no? Sono Alberto. Alberto, sì. Sono io che sento, niente senso, non so, forse Roberto essendo più lontano magari non si è sentito. Se tu sei a casa evidentemente sì, nei miei paraggi, va bene, avanti Roberto, è di nuovo Alberto che ha ripreso. Ah, poi ho capito bene, infatti ha detto Alberto, però lo sento Santiago sì qua, e mezzo al QRM è proprio lontanissimo. Io qua sì, è già troppo, riesco a sentirlo perché ho sempre QRM molto molto alto. Vediamo di nuovo se mi ascolta di nuovo lui. Avanti Alberto. Sì, sì, io ti ascolto perfettamente Roberto. Forse Roberto non ti sente, ha QRM alto, per cui magari fa fatica un po' ad ascoltarti. Vabbè, mi sa che sta incominciando ad arrivare un pochino la pioggia, perché con questo QRM che c'è adesso, forse col vento di oggi ne porta la pioggia, non lo so, la verità, le condizioni meteorologiche non le ho seguite oggi, per cui non so cosa dire. Avanti, Roberto. Allora, adesso sto guardando le previsioni, vediamo, martedì niente, mercoledì, aspetta un attimo, cosa cazzo, mercoledì dovrebbe piovere comunque, aspetta, ve lo dico con certezza, riprendi tu Claudio. Sì, quest'è Roberto, sì, io dico che aveva messo acqua, però io lo guardo su internet, capisco che l'applicazione non sono molto dettagliate, perché a volte dicono che piove, invece c'è il sole, perché siamo anche alti di temperatura, capisco, la vedo dura, capisco che metta acqua, per mettere acqua, io tu ero domenica, ha fatto un bel acquatore, ha fatto anche da noi, si poteva anche andare alle Marche, si poteva, però la vedo dura e che faccia come domenica, perché ho visto, sì, nella previsione che doveva piovere, come che dice, non puro quello, però qui ancora molti non sono arrivati, mi sono affacciato poco fa e c'è molte delle scariche poco fa, pensavo, ma che stava venendo qualche temporale, infatti volevo che spegnere per sicurezza, ma ho visto che non è stato il vento, insomma, ho sentito anche uno che stava parlando di propagazione, perché c'erano dei tedeschi, ho provato a contattarli, poco fa sul 21, sul 23, ma non mi hanno dato risposta, probabilmente non compatiscono una massa di italiano, e poi ho parlato con uno che era in paramobile, con italiano, non sa, di continente, dopo era sul cibo, ma mi arrivava al passo, e poi ho perso il collegamento, sono venuto qui a parlare sul 10, capito, le previsioni, non vedete come hai detto tu, Roberto, come ti acqua, riprendi Giulio. Ok, Claudio, sì, no, da oggi io non li ho seguite le previsioni, per cui non lo so, dopo casomai quando ci sarà il telegiornale sarò un po' più aggiornato. bene, bene. Volevo chiederti una cosa, Robè. Poi con la macchina, la vuoi vedere se funziona? Quale macchina? Quella che ti ho dato io. Quella macchina che mi hai dato tu? Sì, io ti ho dato io la macchina. Guarda che anche cosa si chiama macchina. Non ti sto seguendo. Ma sei andato? No, io sto pensando macchina, sto pensando l'apparecchio qua, no, io era troppo coso, l'ho dato a mio fratello su a casa sua per tagliare legna, in officina era troppo ingombrato, l'ha portata su, credo di sì, giù, quella rossa, quella grande. Esatto, quella grande, quella ruota enorme, quella 8 quintali più o meno, tanto per intenderci. Ma tu non sai cosa abbiamo dovuto fare per spostare quella roba? La roba è vazia, cacchio. Ci siamo messi roba di 6 persone per strisciarla. Ci stava troncando la guerra, la gru piccolina, perché aveva dovuto sbracciare, l'hai visto? Dove l'avevamo messa, non so se te l'avevo fatta vedere. Ed era sotto quella tettuia. Allungato il braccio della gru, era un camioncino, dai, non era di quei camioncini leggeri. E a Giovanni si caputteggia un pozzo. Infatti, aspetta, che l'abbiamo soltanto, ha dovuto diminuire lo sbraccio, perché non poteva sbracciare troppo, perché se no toccava. Cioè, ho dovuto allungarla perché sennò toccava nella tettuia, quella di lì. Per toglierla, a frente siamo affarati, ci siamo messi, ma pisati, tu hai detto 7 quintali, quella pesa più di 7 quintali. Dovrebbe pesare 8 quintali, suppongo che sia così, e beh, tutta visa, quella è una delle macchine indistruttibili, poi lavorava anche a varie gradazioni, inclinazioni, anche a 45 gradi, beh, si può ribaltare al piano, vabbè, comunque. Nella macchina, tu pensa che i falegnami che avevano necessità di spaccare certi pannelli, il fango di pannelli larghi, alti anche 40 centimetri, cosa un po' difficile con la Segannato, perlomeno con quelle di oggi, ma con quella spaccavi che era una meraviglia, perché era intanto perché aveva largo da 4 centimetri, se ricordo bene, e poi perché funzionava che era una meraviglia, perché aveva una forza di spinta, di volani straordinaria. Lenta nella partenza, ma una volta che partiva, poi a fermarsi ci piegava un quarto d'ora, ci piegava, una volta che aveva finito di lavorare, spegnevi e girava continuamente. È una gran bella macchina, era antica, cosa che oggi non ne fanno più così robuste, vabbè. Lui ha detto bene, c'era un volano spaventoso, quando l'abbiamo messa in funzione, beh, stava 5 minuti girando di inerzia, non finiva più, era molto equilibrata quella macchina, e l'ha portata su a Monte Bianchino, e lui, siccome c'era il coso, la legna, il camino, la usava per tagliare, e tagliava tronchi, non rame, tronchi. Ma certo, con quella sì, quella è una macchina, ripeto, grande, una tra le più grandi, forse era la più grande addirittura, in assoluto, oggi le fanno molto del genere le macchine, oggi siamo stati attenti quando metti il tavolone di rocco sopra o di principale, ad esempio, che sono tavoloni grandi, pesantissimi, se non stai attento si ribalta la macchina, quella nemmeno lo sentiva che aveva tutto quel peso addosso, ripeto, era una gran macchina veramente. Prima quella della Cagliari, poi ce l'ha avuta mio padre, poi ce l'ho avuta io, e adesso ce l'hai tu. Va bene, comunque, sono contento comunque che l'avete messa in funzione, così almeno a qualcosa serve. Ma c'è un motore spaventoso, c'è una potenza, adesso magari ci sono motori che sono un quarto di quelli, ma cacchio, come noi avevamo una mola, l'abbiamo sostituita a una mola di quelle a muro, motore di quelli vecchi, trifasi, cacchio, sia che la bloccavi, adesso me ne hanno dato uno, un amico, ma appena frappare la forza subito si blocca, quella là gliela bloccavi domani, è che non era più a norma, l'abbiamo dovuto togliere, come quel fatto tuo, che sono di vecchia generazione, non hanno, devi aggiornarle, mettere interruttori di blocco, eccetera, eccetera. Catalitico, e molta gente dice ci me ne comprano, così abbiamo purtroppo una colonna che ero bambino io quando l'abbiamo comprato, è più alto di me, sono a 2 metri di altezza, già vi faccio domani quello, peserà lo stesso 4-5 quintali. Certo, quando sei andato il motore mi sembra, se ricordo bene, 4 cavalli e mezzo, o meglio 4 kilowatt e mezzo mi sembra, adesso non ricordo bene, ma più o meno quella porta lì, sì, infatti. No, nella partenza era lenta, facevo e poi metti fini per lavorare, ci stavo 4 ore girando perché era equilibratissima, eccetera. La forza solo, il peso dei volani era eccezionale, e a fermarli è per quello che ci voleva tanto tempo. Vabbè, dai, facciamo ritornare in frequenza alla cosa, come si chiama, con noi. Avanti con noi. Sì, può essere il Giulio. Sì, stavo scrivendo il discorso. Sì, è quello che fanno adesso, su tutte un'altra cosa, le macchine, cioè su tutte le elettriche, tutto che... Cioè, come le fanno facile adesso, non solo sono molto più belle, anche molto più fazioni, anche dentro, molto più confortevoli rispetto alle macchine vecchie. Però a me mi piacciono quelle prime, proprio quelle del 80, degli anni 90, che ne so, Alfa Romeo, una Mercedes, sono molto appassionato di queste marche. Secondo me le migliori, cioè, che non fate sono quelle del 80, degli anni 90, e io le ho sempre a parte. Sta confondendo, Roberto. I primi, Roberto. Ok Claudio, sì, ma stai facendo confusione perché noi stavamo parlando di una macchina da falegnameria, capito? Una sega a nastro, non di macchine automobili, una sega a nastro, una macchina da falegnameria, tutto lì, avanti Roberto. Sì, infatti l'hai anticipato tu, stavamo parlando di un'altra cosa, comunque anche il discorso di Claudio, le macchine di vecchia generazione come robustezza e cose erano costruite, io me ne accorgo dai particolari, dagli accessori, pannelli, maniglierie, eccetera eccetera, adesso cazzo si sfasciano tutto, sono fatte apposta per rompere, c'è appena tocchi qualcosa ti rimane in mano, ti si sfascia tutto. Io ho visto un Mercedes degli anni 80, abbiamo fatto verniciato tutto, c'erano le mollette tutto in plastica, non se ne è rotta uno, le abbiamo tolte e ripiazzate, vai a farlo con una molletta di adesso che appena tocchi tutti si spaccano. Sì, beh in effetti è così, in effetti oggi è così, oggi è il materiale non è più come quello di una volta, dai. Certo. Ma domenica c'era un raduno, un'esposizione di macchine antiche ad Alghero. C'era una macchina addirittura del 1925, Roberto, eccezionale, bellissima, nuova, fiammante. Se ricordo bene era una macchina francese, adesso non ricordo bene, ma grosso modo una cosa del genere. No, non lo sapevo, adesso credo, se non questa, forse l'altra settimana, forse questo fine settimana, sabato e domenica fanno una specie di giro turistico di notte. Partono la Piazza d'Italia tra sabato e domenica e fanno un girettino così, il centro motori elettrico dove adesso vabbè non ho rinnovato la testa dove ero scritto io e fanno una rievocazione con tutte queste macchine, poi vanno a cenare insieme e sono cose carine, dai. Mi dispiace che ogni tanto succede qualche imprevisto, hai visto quello che è morto in moto, era vicepresidente del Respizio, associazione incontinente, stamattina o ieri ne sono morti altri tre di questi motociclisti che andano al raduno, tre più altri tre gravissimi. Sì, ho sentito qualcosa alla televisione, quello ha causato un incidente, è morto lui, la moglie e qualche altra persona anche, e anche qualche ferito. C'era questo raduno, ma non lo so, ma forse lui, a quanto ho capito, non faceva parte del raduno, ma è arrivato velocissimo e si è trovato tutto l'assembramento di quelli del raduno. E poi, non lo so, forse è investito qualcuno, non, di preciso non ti so dire più di tanto, Roberto. Ho visto solo una moto, era una Yamaha di quelle R1, sono moto ad altissime prestazioni, che poi devi camminare con ricatto, non è per dire come le moto, con le mottarde, le moto enduro che sei dritto, con la testa, qua devi stare sempre con la testa in basso, e ogni tanto alzi lo sguardo, ma se stai camminando dice con il rettilineo, si è ammazzato un po' di gente, di lì cammina, ma dire uno per pochi secondi ha abbassato lo sguardo, poi di colpo si trova un mucchio di motociclisti e li ha frantumati. Sì, appunto, dunque non era uno che faceva parte di quel raduno lì, c'era il raduno, dunque l'assemblamento, lui è arrivato velocissimo, forse non si era reso conto che lì la strada era impegnata da questo raduno e è successo quello che è successo, perlomeno così ho capito, non è che mi sono impegnato così tanto ad ascoltare come in realtà è successo l'incidente, ma credo di aver capito qualcosa, anche perché stavo parlando via casa, dunque ero più attento al discorso che avevo in famiglia che alla televisione. Tutto lì. Avanti Claudio. Claudio ogni tanto si allontana. Ci sei Claudio? Sì, forse è lui. Sì, che sono passato, stavo guardando una cosa in un interclima di questa radio. Sì, è quello che è molto convertito sulla sei su due ruote, basta che toccano appena appena. Ma la cosa ridicola, quello era in Vespa. Quanto può camminare una Vespa in un raduno? Massimo arrivano a 70-80 all'ora, mica si mettono a 200 all'ora. E cacchio, l'hanno schiacciato, una compressione del collo ed è morto, poveraccio, lo conoscevo pure quel tipo. Purtroppo, vabbè, sono incidenti che capitano, succede tante volte. E quell'uomo anche amico di Gianni Lubrefetta, è anche amico di Eugenio, che era, aveva avuto quell'incidente, addirittura aveva perso la gamba lì, e poi era morto dissanguato, credo, o qualcosa del genere. Infatti poi mio fratello gli aveva fatto in memoria, in sua memoria, una canzone, che mi sembra che te l'avevo anche mandata, e questo risale a 3 anni fa, sarà una cosa del genere. Peccato, peccato veramente. Vabbè, tra l'altro era il padre di un'amica di mia figlia. Pazienza, purtroppo gli incidenti succedono. Avanti Claudio, ti sei? Sì, questo è il mio Giulio, sì, ci sono, sì, si sente anche la gente di distratto, si sì, sta parlando in banda laterale, si trova con niente in propagazione, sarà anche il canale vicino, non lo so, ma può essere sicuramente propagazione, perché io non ho le bande laterali, capito, più corta, non so da cosa può essere, però si trova con la gente che parlava sotto e sì, capito, sono cose che capitano, purtroppo, tutte cose. Cioè devi stare inclinato con la testa verso il manubrio, per cui non è una guida rilassata dritto, per dire, se guidi una moto, quelle diciamo con guida alta, tipo le motocross, moto enduro, quelle moto tipo custom eccetera eccetera, guidi dritto con la testa dritta, mentre con le moto lì sì, una posizione raccolta, perché sono moto diciamo derivate dalle moto da gara sportive, per cui c'è un tipo di posizione che c'è sempre con questo collo rigido, ogni tanto poi abbassi lo sguardo, però se stai andando a 150-200 km/h e una frazione di secondo avrai fatto già 100 metri, ti trovi un cane, un bambino, una bicicletta, in quella frazione di secondo a quando avere il tempo di reazione, di frenata, tempo di spazio di frenata, tempo di reazione e spazio di reazione, hai già fatto 50 metri e non hai tempo di reagire. Che avanti. Ok, buonasera a tutti, stazione Urania qua dalla collina, bisogna andare molto piano e poi quella lì non è una moto da camminare in strada così, quella è una moto da pista e bisogna usarla solo in pista, quello lì vorrebbe arrestare questa noia moto. Ok, perfetto, complimenti anche a Cosa per il suo Constant, a Claudio, qua sta arrivando benissimo, una splendidissima modulazione, anche uno splendido. Uno splendido segnale in cassa, ok, perfetto, vabbè che siamo vicini, quindi, però facendo benissimo la pressione. Ora sarà anche a te, Giulio, buonasera anche a te, Roberto, che mi hai fatto entrare, ok. Perfetto, riprendi tu Roberto, che mi hai fatto entrare, saluto un cordiale ancora a tutti, e devo dare anche un fotoleo come sto uscendo, cassa, a te, diciamo, il mic, Roberto, a te cambio, buonasera. Allora, il tuo segnale supera il 9, quasi 9-10, 6, la radio 5, pulita, chiara, niente da dire. E avanti Giulio, per te, saluti a Francesco. Ok, ciao Orario, salutoni, ben entrato, qui da me c'è il bando Santiago 9, e la radio è bella, bella, bella, bella, ultimamente bene, non c'è problema, per cui, sì, in effetti, la moto è bella, perché anche a me piace molto, io quando ero giovane la moto l'ho sempre guidata, eccetera, però bisogna guidarla anche con la testa, poi naturalmente ci sono i momenti di sfortuna che uno magari, anche se non dipende dalla persona stessa, ci può essere qualcun altro che ti viene addosso, allora quelli sì, sono momenti che purtroppo non ci puoi fare niente, però se tutti quanti guidassero una moto con un cervello, senza stare a fare le gare, eccetera. Come dicevi tu, Francesco, la moto per correre bisogna andare in pista. Ci sono anche le piste, uno se vuole sfogare va in pista e para l'ingresso e si diverte, per così dire. A me la verità non è mai piaciuta la velocità, né in moto né in macchina. Io ho sempre guidato piano, in maniera abbastanza tranquilla, senza avere quella bravosia di provare la presa della velocità. No, non mi piace assolutamente. Beh, vabbè. Sì, aspetta un attimo, c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti qua sul canale 10 che vuole entrare. È preparazione, vabbè. Infatti c'avevo dei dubbi di quello. Ok, vabbè, la moto, io ho degli amici, ho perso degli amici carissimi, tra l'altro uno sicuramente l'avete conosciuto, Francolino Meloni, era un professionista della moto, non era uno sprovveduto, sia in moto che in macchina, eppure è finito male lui, gli hanno tagliato la strada di lì vicino alla promocamera nel rettilineo, vabbè, c'è da dire che stava anche correndo, questo camioncino ha girato, ha fatto l'inversione, l'ha preso in pieno sulla ruota, neanche la moto, è conosciuto, giovanissimo, tra l'altro con un bambino appena nato di pochi mesi, e purtroppo è finito. Poi ho assistito a diversi incidenti, tra cui anche qualcuno mortale, di amici, quelli facendo gli scemi, correndo, li ho visti male, e poi più avanti li ho trovati, uno morto, l'altro di un mano non si ammazza, davanti a me, molto davanti, per cui oggi giornate di defunti, stavo parlando, cioè direi che a me abbandonate, parliamo di cose un pochettino più allegre. Avanti a te, Uranio, fatti risentire e ci dici che con radio, che con quale microfono stai utilizzando. Sto utilizzando un Turner U3, ok, di color grigio. Come apparecchio sto usando un Icom 720 Alpha, ok, rosso. Questo è il fatto l'abbinamento per questo microfono. Un amico me l'ha fatto, dai, ok, quando pare gli va benissimo. Perfetto, tutto qua, con l'antenna sto usando una LEM Super 16, alta circa 9 metri e con 16 da radio. Ok, tutto qua, va bene. Ok, allora riprendi Claudio, perché per questo tuo bellissimo apparecchio, a me con l'apparecchio mi piace fare molto, apparecchio, oltre che apparecchio. Va bene, riprendi Claudio con la buonasera. Thank you. di arresto, ok. Perfetto, va bene, riprende Giulio, a te il cambio. Ok, perché io riprendo, per salutarvi anche, così andiamo giù a cenare. Ciao Francesco, grazie per essere entrato, salutoni, fatti sentire. Ciao Roberto, grazie anche a te per la chiacchierata, a Claudio da Muros. E poi Natalino sei all'ascolto, ciao Natalino, salutoni, e Luca sei ancora all'ascolto. Salutoni a tutti, ascolto il vostro Pirolino e dopodiché faccio quello di avanti Roberto. Ciao Giulio, sentite anche io, troppo vado a mangiarmi qualcosa. Purtroppo c'è molta propaganda, adesso sta salendo, anche a te ti ha disturbato, ti ho sentito perfettamente, però a Francesco lo disturbava parecchio. Allora Giulio, buon tutto, buona carica, ci risenteremo in altre occasioni, sempre con piacere. Avanti Claudio per Giulio. Sì, saluto a Giulio, qui Giulio mi ha fatto piacere, grazie mille per il tuo show, ci sentiamo alle prossime linee, buona serata e buona carica con ok, allora buonasera Giulio, buonasera e buon progresso di serata e saluti a tutti il PCQR a familiare, ok, alla prossima allora, buon progresso di serata, ok, perfetto. Sì, ok, si è lasciato un attimino di bianco, se mai c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti, sul 10, chi vuole entrare? È una propagazione sporca, perché sono segnali, probabilmente in banda laterale, uno sopra l'altro. Anche la casa già, quindi però non abitano più qua. Ok, che c'è ancora anche l'antenna fuori da vecchia manto, e pare che c'è ancora lì sul tetto, ma è tutta devastata dal tempo, tutto che è tutta oxidata nera, è andata già con l'antenna, e c'è già penso più di 30 anni con l'antenna lì, c'è buoni 30-35 anni. Ok, va bene, riprendi Roberto, a te il cambio. Sì, sono rientrato. Una domanda a Claudio Muros, e quella di Crass ce l'avete ancora, quello che avevo dato io? Sì, Cossenner, sì, perfettamente funzionante, quando l'aveva sistemata da 180 watt in una fonte che guardava, me l'ha provata con una roba che l'ha attaccato, e l'ha tutto visionato, è perfettamente funzionante, solo che se dare abbiamo fuori quello, capito, e non si può usare in 26, che altrimenti me l'ha preusato, perché possiedo anche un'altra linea, possiedo la FM50 B e FM50 M, quella della sopra, tanto che entra in 27, però non si chiude una valvola, quindi deve essere una valvola e qui è completa e la posso cambiare volendo per fare una prova, e quindi quella è una bella linea di radioamatore valvolare, sì, ma poi ce l'ha sempre quindi lì è in garage, ogni tanto le portiamo, le lasciamo in recessione a funzionare i distributori, perché altrimenti si rovinano, perché anche sono apparati quelli che se li lasci molto accesi, se li fai molto scaldare, diventano un eccesso tiro quello, quindi. Sì, sì, è quell'altro che avevate preso sul mio info, a quel mercatino, ti ricordi che cosa era, quel ricevitore? Ah, quello ce l'ho sempre, quello è una radio a onde corte, riceve la 27, mi l'ho acceso l'altro